Ciao a tutti, sono il vostro Micromante e questa è la prima puntata di Son of a Beat, il podcast del blog dedicato alla micro music italiana Micromaniacs, o all'americana Micromaniacs. Come dicevo, questa è la prima puntata e ho deciso di fare un podcast per creare un contenitore di informazioni, ma soprattutto per far sentire più micro musica possibile, dato che in Italia questo è un genere ancora di nicchia, e dunque il mio intento è divulgativo e il più possibile informativo. Cominciamo subito con il primo brano, lui è Omino Lego e pochi mesi fa è uscito il suo album intitolato Tales from My World, distribuito dalla Cuckoo Net Label, che festeggia così la sua uscita numero 20. Questa è Is This Science? Dopo Omino Lego avrete capito che in questa prima puntata non si scherza, infatti sarà dedicata interamente alla microtecno, o per citare direttamente il prossimo artista, la musica martellona. Lui è Kenobit e questa è la sua Corrupted File. Questa canzone per il momento la trovate nell'ultima compilation di Micro Music Italiana, uscita poco tempo fa in occasione della riapertura del sito 8bit.it. Scritto 8-b.it. Ma presto farà parte dell'album di prossima uscita di Kenobit, che verrà distribuito anche in edizione limitata, niente meno che in vinile. Proseguiamo con il boss della Cuckoo Net Label, lui è Busker Droid e l'estate scorsa è uscito il suo album Row Row Row, che in realtà è una collaborazione fra lui e Microman, l'artista con il quale si esibisce spesso dal vivo e che ha condiviso con lui questa uscita. Questa è Smash It e lui è Busker Droid. Come potevo farvi ascoltare Busker Droid senza farvi ascoltare anche Microman? Stesso album, solamente qualche traccia dopo c'è Microman con Blip. We'll be right back. Chiudiamo la puntata con un artista caratterizzato da un sound più particolare rispetto ai precedenti. Si chiama Pablito El Drito e questa sua canzone è da poco uscita nella compilation internazionale Somos un gran sistema de sonido averiado, a cura dell'etichetta messicana Núcleo Roto. Pablito El Drito con Champagne Molotov. We'll be right back. Tutte le canzoni di questa puntata sono state composte su un Game Boy. Già, il vecchio caro Game Boy modello DMG01 dell'89. A dimostrazione che se utilizzato sapientemente, pompa di brutto! Così finisce questa prima puntata di Son of a Beat. La sigla di questa puntata e la musica di sottofondo sono mie composizioni, e per quanto riguarda gli artisti ascoltati oggi, trovate tutti i link che vi servono nella pagina dalla quale state ascoltando o avete scaricato questa puntata. Io sono il vostro Micromante, vi aspetto su micromaniacs.wordpress.com e alla prossima, Micromaniaci!